dass der mal bergheit bei mir. Bordello, vi è piaciuto Oxy? Fenster runter! Un applauso per Watu! Ci siete? Siete svegli? Ok, ok, vediamo. Fenster runter, wenn die Kuhwas von der Kuhwas steht. Ohne Sandalen aus dem Südwest bis Jerusalem. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Das ist die Kunst des Überlebens. Bleiben alle versteckt, Partisaner. Fresse Bulgur aus Okinawa. Okay. Drüber steht, drüber sind, Haus ist der Vater von all die Maurer, schlechter Taucher. An die Farmer. An die Farmer. Mailand. Fenster runter. Ja, noch SLB. Milano, check. Ja, Milano. Connection Danimarca, Incella, Costa, Valhalla. Polo Faxonato. Paro come chicken. Quanto moschino. Si, si, mojico. Arrivini con la pistola. Non si habla col sceriffo. Scappo tra gli scogli col motoscafo. Ya no es el mismo. Un calipo, tutti e due per me la sofferenza. I wanna stay. Obbligo in ginocchio. Nobody is safe. Molotov per il medio evo. Se fossi bossi con i gossip. He red motherfucker come emoji. Tipico Giorgio Oki. I'm good to go when I gotta sleep. Tu con i kids slofi. I ragazzi goffi goffi dolci come l'angostura. Si, si no, no barracuda. Di chiostura scappo tra gli scogli. Col motoscafo. Scappo tra gli scogli. Col motoscafo la vuoi conto cruda. Come cazzo la vuoi? Es el mismo, no, ya no es el mismo. Lennessy, mi manca Lennessy. Rafa! Check, check. Damit kommen sie nicht klar, denn ich trenne deinen Call vom Rumpf wie Conan der Barbar. Leblose Körperfeinde, die stabile Seitenlage. Träume platzen, denn sie sind nur eine massive Seifenblase. Keine Frage, Rap zerstörte deine Existenz. Denn jedes meiner Worte machte dich zu einem schlechten Mensch. Besser lauf los, sonst verpasse ich dir den Kettenfauststoß. Seit Tag 1 bleibst du high, nur auf Curb und auf Groß. Süchtig geboren, nüchtern gestorben. Heute werden obdachlose Penner die Künstler von morgen mit der Zeit. Kommt dir deine Jugend so verloren vor? Besser spät als nie, schmeiß die Kugeln ins Kanonenrohr. Aber du bist und bleibst ein gewundenes Fressen. Willst pumpen und pressen, doch bist nach zwei Runden am Häscheln. Junge, bleib lässig, ohne wir beenden das ohne Streit. Andernfalls fühl ich den Tod dabei wie die Lorelei. Yeah. In this life, chick, chick, you have decided before you came, one, two, that you were going to give your 100%. You decided that the lessons you want to learn will be the toughest lessons that you ever faced. Because in this life, you want, you want, and you will, you will become, become, become, become, become, become, become, become, become, become, become, become. No, no, no, no! Thomas, check. Tutti, voglio sentire tutti. Uomo dei pilastri, colonne alti, sì, sì, sperano gli alti. Sono fatto di buona storia. Non devo la riposa, ma riposa gelosa. In bocca la gomma deliziosa. Hai la bonza e cosa no? Di bella molla. Prendi gamba, fuoti con il pulpo. Futurista, culturista, salve molto. Ragazzo furbo, culto, con gli occhiali da bicchione. Vedi tutto, baby, vai con le braccia al muro. Check, yeah, Fufu spacca cazzo! E Fufu Nerdy Flash, fa culo tutti art and breakdance. Modello a Milano, ho sogni flashbacks. Sto meglio in Germania con l'Afgano. Fashion, povero Bassano. Mi chiamo un marziano pronto con un coffo nel bosco. Parcheggio al mondo, profondo, con la nariz in conto. Tu ciucciolando, ciupamelo con l'olio, bergoglio, extravergine. Io piango, se resto con te io piango. Se mi vedi, mi vedi solo gocciolando, cazzo. Yeah. Oh. Oh. Cazzo, oh. Cazzo. Ciao. Sì. Peccato che non mi ha fatto l'apertura a Massimo Pericolo stasera. Sono deluso, gioia. Ma sudiamo? Sudiamo? Sudiamo stasera? Segno di Vanessa, se parlo col demonio mi appare puro Vespa. Penso come Gesù Cristo, dimmi chi l'ha visto. Nel mio DNA culto narcisismo. Razzista, mafioso, benefrechista, goloso. Baby, you got nothing under your trench coat. I swallow MCs like a trench coat. Io come Dio faccio un pasto un pugno per la faccia di Toto Cutugno. Si se mi sfogo, missionario sparo come me topo. Forever never boss come Hugo. Habla mucho puto che non ti escucho. Stupro con il scudo, papi chulo. Break dance mentre fumo. Break dance mentre fumo. Habla mucho puto che non ti escucho. Habla mucho puto che non ti escucho. Tutti. Habla mucho puto que no te escucho. Tutti, habla mucho. Habla mucho puto que no te escucho. Milano. Check, check. Fufuletti. Che caldo. Oh, diventa sexy, guardate un po'. C'è. Ok. Oh. taglio nella merda, tu dici. Non voglio tornare più in Germania. Non ho odio per me stesso. Non ho nulla da dire a me stesso. Siete carichi, sì o no? Allora, un bel sorriso alla stampa. Arrivi però, io che fare un bel sorriso. Ma fai da pure. Posso faccio che andava per camminare. E va, piglia il bicchiere. Aspetta. Contrafoni, non con i sudi messinesi, con gli arancini marci dentro che tu high life, what day, uno sguardo sullo stretto hush, ci apponga a costa ti ascoltami con la mano piena di dollari carabinieri, anticloro dal Mount Wasabi con il mio figliolo 2000 anni fa venne sull'onda come un pizzaiolo super figo, bufuletti, donnaiolo trozzati senza miracoli. I miei ragazzi mi portano a Napoli. Grazie a Mari, mare vostro. Ascolta, ascolta. Scappa tra gli scogli, non mi meraviglio. Prese il posto da te e da suo figlio. Vergogna, vergogna. Ho vissuto sempre nella fogna. Vergogna, vergogna. Mi chiama la tua tipa di Bologna. Vergogna, vergogna, vergogna. Sono fatto nella menzogna. Ci passi di cicogna. Figlio di una donna, figlio di una donna. Sparo come, sparo come chicken, chicken, coltivazione, blicky, Italia nella merda. Elisabetta Ferracini, se penso ad Alessandra Mussolini, tutti e due per me sapore di ciambelle, non so nuotare, sapore di sale, se liscia come il tonno rio mare, la vergine è incinta da bufuletti, incazzato come aromite, sparo come chicken, sparo come chicken, come chicken. Non li sa me che parlare così, perché almeno parlo un po'. Ehi, ci siete ancora? Siete svegli, dai. Spacchiamo insieme, dai, un bacio. Chi ce ne porta le birre? Sta tutto sobrio. Chi ce ne porta le birre? Come che ce ne porta, fra? Un po' più romantico. Allaggi con la Jeep, tiro flex e flex con Anis. Se metta con back to my life please. Se metta you look right in my jeans. Fashion pas derrière, c'est bien. Mon visage n'est pas bleu. Oui, pas derrière, c'est mieux. Oui, mon style est beau. Sinon, vous êtes à Yokohama. Mi ama. Oh no, mi ama. drago della Jeep con la spada da Mocle. Cash cash moriamo senza fama da nole. Niente nemmeno 50 euro. Con il scudo sputo fuoco, sparo come il topo. Nelle foglie con le ossa e vado via con Anna Oxa. Fecio tutti gompo. Fiscio nel mare pieno di male lingue, senza piombo, super 95. Check, check, check. Oh, oh, oh. Vi piace 1-2? Vi piace? È una bestia. Se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace. O femmina, o mascolo, non ha importanza. Se beati, siete tutti i miei fans, chiamate, perché a me cane mi piace. Bomboncino, chiamate, chiamate. Va bene? Lo voglio regalato. No, a pagare, perché soldi non hai, ma... Regalato. A te ho muso ti ho fatto scattare, non ci chiedi? Mi piace godere la vita, a ballare tanto sai che mi piace. A ballare... Lo conoscete a Drantomsky? Pizza. Sì o no? C'ha una zia famosa in Italia. Corinna Ivaldi. Chi la conosce? Un applauso perché si è fatta Diego Abbadantuono. Eppure Zucchero. E smettila, dai. No, no, no. Check, no. Check. Ok, un book, dai, spacchiamo. Uno. Check, check. Ci siete? Sì o no? Sì o no? Check, check. Litighiamo appena cacquagli, dalli di gemme, no frammenti, come i cristalli. Compro cacciupo da stata se sbagli, il mare ripolle, fammi le bolle, a mille cavalli, donne nefasti, sei magica. Mosma beba e basta, sono un uomo, dopo che è morto il petto castagna. A due gambe del Reggio Calabria, fino a Basso Camascia. Sparo con plasta nell'indoro con l'Onix, Alfa, Alfa, Campo. Bagni nudi nei salassi, fumo l'extra dosis. Fumo l'extra dosis. Ci lasci la pelle, solo necrosi. E solo necrosi. E solo necrosi. E solo necrosi. Fumo l'extra dosis. Fumo l'extra dosis. Tutti. Ci lasci la pelle, solo necrosi. Come? Ci lasci la pelle, solo necrosi. Ok. Fumo l'extra dosis. Check. Higher up, wir bleiben ständig Konkurrenten. Denn dieser Track sorgt für heftige Turbulenzen. Rechne mit Konsequenzen, doch du kapierst es nicht. Wir definieren dich anhand deiner schwächelnden Kompetenzen. Das heißt, jeder weiß, deine Crew will die Beste sein. Doch ihr kommt nicht weit, weil ihr dazu nicht berechtigt seid. Suchst nach Gerechtigkeit, aber letztendlich setzt mein Track dich direkt außer Gefecht. Wie blutiger Tisch durchfallen, Heinzer Schneider. Machen Gebrauch von der Guillotine. Denn dein Crew-Logo sieht aus wie ein Bio-Siegel. Leb dein Traum oder gib ihn auf und zock Videospiele. Doch red dich nicht raus und halt bitte dein Maul nur mir zuliebe. Denn ich kill auf Kommando, still wie John Rambo. Erwerbe die Patente auf Rap und ficke Monsanto. Tanze den letzten Tango. Meine Skills erreichen bei weitem unendliche Weiten, die dein Denken überschreiten, Digga. Es soll eine Grosi. Es soll eine Grosi. Es soll eine Grosi. Fumo l'extra dosis. Fumo l'extra dosis. Ci lasci la pelle solo necrosi. Ci lasci la pelle solo necrosi. Fumo l'extra dosis. Fumo l'extra dosis. Wu-Tang. Wu-Tang. Wu-Tang. Baby, dove cazzo è la forza? Milano, dove? Ho dormito Gira. Ravolo, voglio una casa in campagna, zero cani, madre draghi. Chiameremo oggi, trovami nell'abisso distrutto dei hashish. Sogni di Kashmir, fuggi con l'aide dopo nel farfallo. Ho da spalla, quando si squaglia, tu al. Parla mai in kick loss, sei troppo black belt. Katasi era sexy. Dice basta, calala, cambia l'avatar. Batti gli ali come se fossi in un colibri. Scarico franchi, calibro 12 gearbag. Ho perso il film, proteggimi. Dalla, slago puntura fa putle. Tirala, ti fai a sangue come l'Ijama. Tirala. Wie war ja sagen, komm, Lidia, Mann. Sie ist nicht leider und zwar jetzt pronto. Machen die Meister dieser Rap-Kompo. Die haben Beine wie beim Tech-Monto. Diggi, der Kackstift will heißen, setz den Text sonst wo überleiten zu der Überschreibung eines Checkkontos. Du fahrst jetzt von gar nicht mal so rentabel. Halt den Schnabel, sonst werde ich gleich panisch. Hab ich Scheiß auf Misswahlen. Deine Bitch sieht aus wie Miss Marvel. Mit Hingabel zu einem dritten Loch bei Missgabel. Sparen Erwartung statt warmer Umarmung. Schlag ohne Warnung mit Gefahr auf Nass und Erfahrung. Du hast gar keine Ahnung. Merk den Namen und Datum. Halbes Gary, ja. Wir setzen den Plan in die Tat um. Scheiß auf Respekt. Tritte nach, dein Kreislauf verreckt. Jeden Tag geb ich Gas. Push den Treibhaus und weg. Live und direkt. Erliegen im grandiosen Finale. Große Rivalen, horizontale Todesspiralen. Na ey. Tirala, ey! Mi vai a sangue, come li chiama? Moia! Tirala! Moia! Tirala! Tirala! Mi vai a sangue, come li chiama? Tirala! Ey! Tirala! Mi vai a sangue, come li chiama? Cazzo! Milano! Sto morendo. Andiamo a casa, dai. Facciamo l'ultima, dai. Ok, the last two. Check. Siamo nati stanchi. Yeah. 2-0-2-1. Uno. Uomini giganti. Alla rincorsa dei miliardi di Gaddafi. Gaddafi. Apriamoci una comitiva. Ti facessi pigiami in una saliva. Ok. Come mai? Mai. Non finisce, no. Morirò con i miei debiti, sì, la Bedoni che Santini, mai come prima. Ok. Come finisce? Come finisce? Come finisce? Come, bro? Andiamo al parco. Capita. Mi trisce. Chi la fa una canna? Ok. Facciamo ancora un po'? C'è l'energia stasera? Di blocco con blocchi di belli fuso. gioia, tutto gold. L'abbiamo fottuta una volta, due, tre volte. Se c'è le scoglie peruane, porto la moda dell'anas. Arrivo come una saga, l'esploro questi di laga. Succhi di fichi d'India, tropicana, Balenciaga, sacchi di grana, Sicurania. Si rifà la mia minchia come la coda dell'iguana. È una vita che faccio, una vita strana. Non la bacio come non si bacia una puttana. Fufu street shark di strada, pigiamo e stile la maga. Tu fa le dita nel fiume di Heinz Stevens. Squaglia la faccia di Kevin Tiger. Super nude, super hashish Play-Doh. La mano del rinascimento tiene Play-Doh. La vita quotidiana afghana mi collego. Wi-Fi hashish highlight Play-Doh. Super Play-Doh. Ich richte mich auf und nimm die Dinge in Kauf. Entzünde das Kraut und forme Ringe aus Rauch. Ich schick auf der Couch in einem finsteren Raum. Der Grund, warum ich nur meiner eigenen Stimme vertraue. Ja, der Boden liegt tief unter glitzerndem Staub. In diesem Haus werden all deine Sinne berauscht. Vielleicht finde ich raus, ob ich in meiner Lage bin auf klare Drinks. Laufe ich quer durch den Labyrinth. Alles wird bräunlich, als wäre ich farbenblind. Dieser Zustand hemmt immer mehr mein Jagdinstinkt. Ich nahm es hin, stark getrimmt, wie verharrte Wind. Doch jeder Schritt fühlte sich an wie ein Schlag ans Kind. Es ergab keinen Sinn, doch bei dieser starken Strömung war die Dröhnung oftmals die einzig wahre Lösung. Meine Krönung, eine letzte warme Ölung. In der Hoffnung, Körper und Geist finden den Pfad der Versöhnung. Ey! Du volle Dieter, den Fumel, die eine Stevens. Maglia la faccia di Kevin Tiger. Super nude, super Paschisch Play-Doh. La mano del rinascimento tieno Play-Doh. La vita quotidiana afghana mi collego. Wi-Fi Paschisch Highlight Play-Doh. Super Play-Doh. Da da da da da da da. Ok, ok. Una doccia. Ok, ok. Bottado. Spovila, tramontina, batterci che suona la Kubrick a Bogotà, sì, fanno le mine. Troppi tagli di bandite, troppi specchi da smaltire. Troppi specchi da smaltire, alzi, tu sei la mia fine, se la prende comoda, portami i video qui e portami a Bogotà, Caffè Colombia, Ivan Cordoba, sì, sì, fratta me muovo le colle, no, non fare la scema, fatto la scena, vendo orologi come se fossi Roberto Baffo da crema, spovila, a 85 stuoni la nonna, con l'acqua tonica, bici tofu, no, we all gonna die, mangio i serpenti, grazie a Kojima. Applauso, cazzo, dai. È una bestia. Check. Lo amo, lo amo. È mio zio. Qualche volta zia. Fumor, trattamenti divini nel hammam, halal, oven, Quale? Il pattino del cinghiale, il ciclopedi si è pulmeggiato male. Occhi dopo post piscine senza fine, con giù di vite. Fumo mentre salto con l'asta, lascia. Di forza la psiche sta bagascia. Faraone di Siemens. Ho visto più di Stevie Wonder del Albert Speaker. Ho sprecato sette vite. Speaker. Oh, oh, my pieces of era un fatto di anche lei era fatta di marmo. Ho fatto l'uomo col fango. Non mi calmo, non mi calmo. Era fatta di anche tutti. Era un fatto di marmo. Si scrinza la ride. Se vuoi sarò per te Albert Schmigel. Se vuoi sarò per te Neto Tasto. Se vuoi sarò per te Albert Schmigel. Cos'altro? Se vuoi, se vuoi. Check, check, check, check. Auto. Sogno toro di bronzo, dimensione d'uomo, golden boy. E stoi come la tigre di Siegfried e Roy. Yano SMismo con la giacca dell'ANAS. Culturismo. Klaus Barbie con i figli di allarghi. Vedi misti, grammi di marmi di allarghi. No, peccatrice buffa, spada come Gemon. A metà l'anguia. Il pofo sciovinista, soi calvo. Certe volte soi golden boy. Certe volte mi drogo di marmo. Baby, baby, sì, sì, sì, schiuma dal caldo. Se vuoi sarò per te, dice. Se vuoi sarò per te con cime. Trovami allo stiga in cima alla piramide. Giro solo con cise. Giro con cise. Giro con cise. Solo con cise. Solo con cise. Dalla dalla dalla dalla su fucking noia. Marco e Francesca hanno detto di no al colesterolo, ma il pofo di sì, you don't see me, you see me, arrivo come le onde. L'occhio di Buffoletti si nasconde dietro l'astromonte, su dalla mia fronte. Occhi da piscina, 3 diviso 4 con la dita. Dimenticate i rimini, nuova Pio, io come Dio, corre CVD. JVC, baby C, Aziz, Arsi, Nami. L'uomo fa l'uomo più uomo di ieri. State buoni, fumo nella pista. Visto mame, dimmi chi l'ha visto. Mi stuono nelle Marche, a Varese. Sì, cani, Sicilia, nelle chiese. Il mondo è fatto a cazzo di cane, fatta a scuola. Base di ape. Next level forever, stesse gambe. Sangue. Pezzo d'age. Mi assumo tutta la tua immagine. Vengo dalla dalla se lei. Sì, sì, voglio un gift sulla mia lapide. Mille trecce di pulpo. Amiche. La sedia di Vanessa saranno notti magiche. Sul mondial flex. Tutti. Fondo il suo seno fragile. Check, check. Puffo, puffo, puffo, puffo. Sudan, dal Sudan. Okay. Un bacio grande. Sfondiamo adesso! Sfondiamo piano! BBC! Ora visto da ora visto! Fino a pistol 13 di come ci sa Bernini. Acqua santificata. Fuggi su Fiji. Senza storie, nuove storie di arabi. Catarsi. Tre cani lancio sassi. Uomo dei pilastri. Fumo, fumo, fumo. Spread the leg to lepi. Flex, baby, I wanna shoot you. Saluti miei cugini BBC con cow. I swim con i delfini. Filtri da cartoncini. ONG, forever, never Ramadan. Farò strage come al Bataclan. Brucia il Notre Dame, non mi tesa. Sudan dal Sudan, l'assedio di Vanessa. Confessami, mi guardi con gli occhi da canna che viene dal Vietnam. Ja. Check, check, Milano. Oh, oh, oh, oh. Facciamo un'altra. Check. Buffoletti is ready. Ok, check, check, check. Check, check, check. Mangio serpenti grazie a Kojima e Gotica, baciami. Ho perso l'oro, perdona loro, perché non sanno, cadono come le dominos. No, no, non sono astemi. Cadono come i capelli dopo la chemio. Ho visto l'assedio, quanto mi costi, tu sei un fossil. Scioli in bocca come in un pocket coffee. Toffee! Pelle ai porci, pelle ai porci. Esco fuori con gli occhi da shooter doggi. Dal dojo, sangue che piove, mangio le piovre. Dammi un voto da 7 a 9, 9. Ave una vita, ave una vita. Non mi conosce, no. Non mi conosce. Ok, ok. Dimmi chi sei. Sicilia fascista, plastica e la gravità Fatima. Fatti la vita che vuoi ma fatica. Formaste talibans, fermo, fermo. Vengo col ferro. Chi non mi conosce mi vede col termo. Mangi il taipan dell'interno. Odio l'estate, amo l'inverno. L'amore un cane che viene dall'inferno. Non ho rapporti col mare, amo in commissione neutrale. La tua bocca che sa di sale. La scarico dalla pezza, hai bisogno di coccole. Spezzami il cuore, baby, ti rompo le costole. Più la odio, più me la godo. Ho perso l'oro perché non sanno. Mi lecco le ferite e poi la bagno. Schlag, flow, sveckrab, deine Brust im Kampo. Kojima. Bruder. Check. Check. Siete svegli, Milano. Facciamo l'ultima, dai. L'ultima. Dopo sole. Dopo sole, sì, no, forse. No, no, non la facciamo, non la facciamo. Sì o no, dopo sole, sì o no. Cazzo, cazzo. Ok, dai. Check. No, no, fai il backup Raffa. Raffa che ha fatto il video. Togli sto cellulare di merda, fra. Fino a qui tutto bene, dopo sole, occhio del Nepal. Un narval con un cino, un Nike mi crossa. Parlami di corpo, sputami le ossa. Ti picco come Caravaggio la cosca, wesh wesh. Sì sì, morirò con i miei debiti, sì la betonica. Prima in un po' di slam, dopo le pose massoniche. Ikenjime. Fuggi come la sprupo, come mi sprupo sto loop. Schreibe mit dem Bus, Dolphin Type Up. Dipingo la cosca, tiro Santini dietro di te con la corda. Dalle pani e giostra, uccido fantasmi, non lo faccio apposta. Drusciami la droga, scrivo con legno bruciato nei muri. Uffa che noia, mi fa quello che vuole, mi fa quello che vuole. Mi fa male al cuore. Ci siamo persi, sommersi come da acque più verdi. Ci siamo persi, mi manchi, ti spogli, qui non c'è nulla. Prima collassa, poi mi sperisce, mi manchi, mi manchi. Ci siamo arrivati? La finiamo, la finiamo, Milano. No. Basta. Dai, l'ultimo. Kubrick, Kubrick, ah? Kubrick. Dove? Da dove? Tutti, voglio sentire tutti, spacchiamo. Dammi sul petto, dove l'ho perso, dopo la stiro, lei che la stira. Sono cattivo, santa rapina, fumo la pianta, ipertonia. Se sono arabe parlo di come no, non viene dalla Tunis. La mia vita sembra che è scritta come da stelle. Kubrick, ovvio, che fumi poi l'ovvio. E nepalese, tali di geme. Tocco le nuvole con le puttane di Gerusalemme. Lei fa la massa, appena lo stanza, appena la provo. Kubrick cancella, passami l'acqua. L'uomo più bello d'Italia. Dopo che morte, metto castagna. Di piccola cosca, di Rosazzini, dietro ti cieco la coda. Pensieri diventano genere, fammi vedere sti buchi di Venere. Tu sei una cagna, fammi l'indiana. Ah sì, sì, ti giuro, nessuno ti ama. No, nessuno mi ama. Corri alla Taribo West, fumo le West, con i West, con il Ghost. Fa Captain Post, ame le sfoggi, ame le rock. Ame le bombe, ame le ossa, come la sfruppo. Come la sera passa le ludo. Come? Come Hassella passa del Luton. Kubrick cancella. Kubrick cancella. Kubrick cancella. Ich leg mich mit dir an, danach leg ich mich zu dir. Ich leg mich mit dir an, danach leg ich mich zu dir. Ich leg mich mit dir an, danach leg ich mich zu dir. Ich leg mich mit dir an, danach leg ich mich zu dir. Danach leg ich mich zu dir. Okay, okay. Di Rosantini dietro di te con la corda. Grazie Milano! Grazie. Applauso. È una bestia. Grazie Milano, grazie a tutti.